9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 19 ottobre dal gattaccio Oscar Giannino. Oggi tentiamo di capire meglio, di sentire anche quali sono le vostre prime reazioni all'indomani di quello che la stampa oggi, il quotidiano diretto della Mare Calabrese, ha chiamato il patto del Calvados. Che cos'è questo patto del Calvados? Sti giornalisti che hanno sempre bisogno di inventarsi delle formule un pochino colorite per tentare di interessare i lettori. E praticamente la convergenza tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy, appunto si sono incontrati a Deauville sulla costa normanna, e che hanno messo fine con il loro incontro al braccio di ferro che divideva i 27 paesi dell'Unione Europea, nonché la stessa frattura c'era all'interno dell'euroarea, sui termini del nuovo patto di stabilità che doveva sostituire, e che con questa convergenza e con l'ok di fondo dato dai 27 ministri finanziari dell'Unione Europea di ieri sostituisce, o si avvia meglio a sostituire, quello che oramai per convergenza di parti politiche, tanto Prodi quanto Tremonti, chiamavano il patto stupido di Maastricht, cioè quello del 1992. È un'intesa di convergenza politica tra il fronte che chiedeva sanzioni automatiche il più possibile applicate dalla Commissione Europea, note ex ante in termini quantitativi, in cui oltre quindi al deficit eccessivo oltre il 3% ci fosse un tragitto fisso di riduzione di un ventesimo del debito pubblico eccedente la quota del 60% del PIL anno per anno, sanzioni dichiarate ex ante, automatiche, con la Commissione in una posizione centrale rispetto all'autonomia dei governi, nonché poi l'ampliamento, ovviamente lo abbiamo già detto tante volte, oltre che al debito pubblico anche a quello che sarà il piano nazionale di riforme, cioè la crescita che ogni paese, con un piano ad hoc presentato alla Commissione ad aprile, che la Commissione deve poi esaminare e restituire con le sue valutazioni ai Paesi membri a giugno, ecco i due pilastri del nuovo regime di stabilità e di crescita che sostituisce quello vecchio. Se non che a questa posizione di Germania, Olanda, Irlanda e quindi di altri paesi nordici, automatica e discrezionale, trattino la mia posizione, tanto per cambiare, che vorrei gli stessi limiti tedeschi in Costituzione anche nostra, sia di deficit che di prelievo fiscale, e credo che le sanzioni automatiche e preventive funzionano meglio di quelle discrezionali e da valutare tanto al peso, soprattutto nella storia europea, in cui abbiamo visto quando i grandi paesi vengono interessati dagli sforamenti che a quel punto sono i primi a eccepire. Ma a questo fronte si è opposto quello invece, con buoni argomenti, a dire la verità anch'esso, che dice: no, le sanzioni automatiche e quantitative sono sbagliate, perché vanno valutate per congiuntura e per dinamica dei mercati e dei diversi paesi, perché altrimenti noi saremmo per esempio obbligati in una situazione attuale a convergere tutti con abbattimenti del debito pubblico e creeremmo un'Europa deflazionista e recessiva, da cui perderebbero anche i paesi in regola come la Germania con l'abbattimento del loro export intraeuropeo. Sbagliato quindi, meglio non mettere cifre quantitative fisse ex ante, meglio non mettere sanzioni automatiche, ma prevedere che sia il Consiglio europeo ad avere il potere di decidere a maggioranza, paese per paese, volta per volta. La Commissione resta con potere di proposta e con la procedura di early warning, cioè di avviso che un paese non funziona, ma è il Consiglio europeo, l'organo politico, quello che prende in mano tutto il processo. E tanto è politica la novità che Francia e Germania nel patto del Calvados dicono che bisognerà modificare i trattati europei per stabilire che questa nuova linea diventa un'arma politica di primo piano, una pietra miliare dell'Unione Europea. Allora tentiamo di capire meglio questo compromesso e di capire meglio anche qual è il suo significato dopo questi anni di crisi, che cosa in concreto può voler dire per il nostro paese. Oggi trovate sui nostri giornali in completo prevalere un giudizio positivo. Il Corriere della Sera parla di patto più flessibile sul debito degli stati, ma chi sbaglia paga di più. Questo è il commento di Marcello Messori sul Corriere della Sera. Sulla stampa direi che c'è un resoconto senza un editoriale che esprima la posizione. Sul Sole 24 Ore Carlo Bastasin firma un editoriale in prima pagina che dice: per lo sviluppo serve più coraggio. Carlo Bastasin è un po' come il minoritario sottoscritto, che era più per la linea tedesca. Questo a volo d'uccello, direi, la sintesi di quello che propongono oggi i quotidiani italiani. Per capire meglio che cosa è davvero avvenuto, abbiamo come sempre la nostra preferita diretta Adriana Cerretelli, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, che saluto e ringrazio. Buongiorno Adriana. Buongiorno. Abbiamo poi con noi due commentatori, due economisti di due punti di vista un po' diversi, con cui seguiremo le vicende del patto, ma faremo anche una riflessione su Stato e non Stato rispetto alla crisi. E infatti sono con noi Franco Reviglio, che è ordinario di economia pubblica all'Università di Torino e autore di questo libro che vi invito a leggere, perché è pieno di cifre che fanno lo stato dell'arte dell'economia pubblica nel nostro paese. Questo libro si intitola Goodbye Keynes, le riforme per tornare a crescere, meno debito più lavoro, di Guerini Associati. Grazie professor Reviglio, buongiorno. Buongiorno. E poi il professor Riccardo Realfonso, che insegna economia politica all'Università del Sannio. Buongiorno professor Realfonso. Buongiorno. Allora iniziamo con Adriana, ci fai capire un po' meglio due cose. Primo, come è maturata questa convergenza tra il fronte del rigore automatico e il fronte della valutazione politica, e secondo, come mai i tedeschi hanno mollato e cosa può cambiare per l'Italia? Ma diciamo che il compromesso è maturato come sempre erano prima compromessi in Europa. A me questa trattativa ricorda molto quella di Maastricht, anche se l'Europa di oggi è totalmente diversa da quella di Maastricht. Anche allora la Germania avrebbe voluto tra i paesi mediterranei rigore draconiano e poi si dovette. Aspetta Adriano, perché sentiamo un eco che interrompe le tue parole. Aspetta che proviamo un secondo, se butti giù proviamo un secondo a richiamarti. Avete sentito che lei diceva che era un po' come il patto del 92. Perché il patto del 92 era stupido? Il patto del 92 era stupido perché in realtà era costruito sulle fotografando le grandezze del debito pubblico franco-tedesco di allora, che era di poco superiore al 50%, e con un'idea in realtà di crescita potenziale media dei paesi dell'Unione Europea che si è rivelata totalmente irrealizzabile, perché quella convergenza verso il 60% del debito pubblico, che all'epoca era fissata come tetto del debito pubblico europeo, era costruita su un'ipotesi di crescita media dei paesi dell'euroarea fatta del 5% di crescita nominale, cioè la somma di una crescita reale più o meno almeno del 3% e di un 2% invece di aumento dei prezzi, quindi una crescita nominale del 5% che si è rivelata irrealizzabile per la media dell'Unione Europea e che poi è stata spazzata via, come ovvio, negli anni della crisi, in cui si è capito chiaramente che quel 3% reale più 2% dei prezzi non esisteva se non per pochissimi e per pochi anni di seguito, perché la media della crescita dell'Unione Europea, non solo quella dell'Italia più della media dell'Unione Europea, ma la media della stessa crescita dell'Unione Europea si è molto abbattuta, e quindi quelle cifre si sono rivelate stupide per questo, perché alla fine il debito pubblico aumentava a prescindere da un tasso di crescita che si era rivelato irreale. Ecco, siamo tornati con Adriana. Prego Adriana. No, dicevo che il compromesso fa parte un po' delle dinamiche europee. Prima c'è una contrapposizione di interessi e poi alla fine bisogna per forza trovare un minimo comune denominatore, e ancora una volta è stato l'asse franco-tedesco che, come a Maastricht, ha funzionato, è entrato in campo e ha trovato appunto una via mediana. Via mediana che comunque ieri ha suscitato non poco scontento da parte dei paesi, diciamo, più rigoristi. Mi raccontano che l'olandese abbia parlato di tradimento nei confronti appunto del ministro tedesco e del compromesso Sarkozy-Merkel, proprio perché si sono trovati scoperti di fronte alle concessioni tedesche che sono giunte per questo fronte del tutto inaspettate. A mio avviso invece erano prevedibili, nel senso che la Germania tende sempre a tirare al massimo la corda, poi quando si rende conto che arriva vicino a un punto di rottura ovviamente arriva il compromesso, perché non si può fare governance economica se non ci si riesce ad intendere su una linea mediana. Quindi io credo che il compromesso per certi versi accontenti entrambi, perché il patto del Calvados di cui parlavi prevede sia un accordo, diciamo, nell'immediato dove c'è sicuramente un ruolo della politica e dei governi, e quindi meno automatismi nell'applicazione delle sanzioni, anche se per esempio il fatto che entro 6 mesi il paese diciamo sotto procedura dovrà rientrare nei ranghi, insomma, delle regole, questo è sicuramente una decisione molto restrittiva per i paesi che saranno soggetti a questo tipo di procedure. Le conseguenze per l'Italia: ieri Tremonti appariva molto molto soddisfatto, cioè in sostanza prima di partire lui ha detto: io sono convinto che alla fine sarà il deficit ancora il criterio centrale e il debito diciamo resterà un po' sullo sfondo, ma non con la stessa incisività del criterio del deficit. E poi Tremonti ci tiene molto a che tutti ripetiamo che è stato assunto come criterio aggiuntivo di valutazione dei paesi anche il debito delle famiglie, che come è noto quello delle famiglie italiane è basso. E questo è verissimo, questo è stato incluso. Il problema secondo me dell'accordo di ieri, sia il patto del Calvados che il patto di Lussemburgo tra i ministri, è che l'accordo è ancora sostanzialmente vuoto, cioè è più chiaro e più preciso il patto Merkel-Sarkozy, ma quello tra i ministri finanziari è sicuramente solo un accordo quadro, un accordo politico che ora andrà riempito, e per riempirlo ci sono da una parte le indicazioni che vengono dal patto Merkel-Sarkozy e dall'altra ci sono le proposte della Commissione che restano sul tavolo e che sono riviste. Allora è vero che ieri non si è più parlato di ridurre di un ventesimo la differenza per quanto riguarda il debito tra appunto il tetto del 60% e il debito effettivo, ma è altrettanto vero che quel dato resta nelle proposte della Commissione. Ora è probabile che in qualche modo si attenuerà quel criterio, però non è detto che il patto all'improvviso torni ad essere un po' molle, un po' troppo flessibile. Diciamo che ci sono davanti mesi di negoziati ancora, e durante i quali, appunto, come ha detto Juncker, il diavolo è nel dettaglio e i dettagli non sono ancora venuti. E quindi ci sarà anche a intersecare sempre più, man mano che procediamo verso i mesi del 2011, la questione della presidenza della BCE. Ci sono oggi, proprio Sole 24 Ore propone in prima pagina un articolo di Wolfgang Munchau che dice: Mario Draghi for president. È oramai aperta una questione, triscendo le sue interviste in Italia negli ultimi 3 giorni, ha fatto chiaramente capire che, insomma, Axel Weber, il candidato alla Bundesbank, che spesso abbiamo criticato anche noi per la disinvoltura delle sue prese di posizioni, e insomma non è che gli piaccia troppo al presidente uscente della BCE, per esprimersi in maniera un po' tecnica e disinvolta. E invece verso Draghi, Mario Draghi, il candidato che non gode troppo del sostegno esplicito del ministro dell'economia, ma che insomma riceve dal presidente della BCE invece buoni elogi, e Mario Draghi potrebbe essere l'unico vero in realtà frontrunner capace di impensierire il tedesco. Ha parlato in Francia con esponenti del governo ultimamente, il nostro governatore della Banca d'Italia, vedremo. Tentiamo di capire ora con il professor Reviglio e con Riccardo Realfonso i termini, al di là dell'eccesso di tecnicismo di questo accordo, che resta ancora da scrivere poi nei dettagli, come ci dice Adriana Cerretelli, dal loro punto di vista che cosa è meglio per un paese come l'Italia oltre che per l'Europa. Metto una piccola ultima spiegazione. Molti ascoltatori ci hanno chiesto: ma questa regola che proponeva la Commissione, cioè l'abbattimento automatico medio di almeno un ventesimo anno per anno dell'eccesso di debito pubblico tra oltre il 60%, per un paese come l'Italia che ha un debito pubblico al 118,5%, cioè quasi 120%, e significava quindi che c'erano quasi 60 punti di debito sul PIL da recuperare, un ventesimo significa almeno 3 punti l'anno. Ma non è folle, caro Giannino, pensare che con 3 punti almeno di debito pubblico da abbattere ogni anno, come si fa, significa avere decenni di manovre restrittive? Allora, a questa domanda, apparentemente molto logica, me ne rendo conto, la risposta però è che dovete stare un po' attenti a fare qualche banale operazione di interesse composto. Questo tetto non è indipendente da due cose. da due cose. Primo, quanta crescita si fa anno per anno? Perché è quello che conta nel denominatore, no? Per fare il rapporto tra debito e PIL. Secondo, dipende poi dall'andamento del PIL nominale, cioè quanta inflazione, qual è l'andamento dei prezzi, cosa che dipende ovviamente dalla politica dei tassi di interesse e anche dalla congiuntura internazionale, poi dipendono i prezzi. Queste due cose rendono del tutto possibile una convergenza secondo quel ritmo indicato dalla Commissione europea, cioè un abbattimento ogni anno di almeno un ventesimo dell'eccesso, anche con deficit pubblici. La differenza è che devono essere molto contenuti e che possono alzarsi tra l'1 fin verso il 2%, non oltre quanto più crescita reale c'è. Perché in realtà la regola della Commissione europea era, si può tradurre così, che si può fare un deficit pubblico che diventa pari al rapporto più o meno tra il 60% del deficit PIL e la crescita nominale di un paese. Insomma, questo lo dico tecnicamente per capirci, però a parole quella indicazione da parte della Commissione non significava prescindere dalla crescita. La mia opinione è che con un vincolo di quel tipo i paesi come l'Italia, che hanno una bassa crescita, entravano automaticamente in un'orbita per cui la maggior crescita, quindi politiche nazionali di liberazione dei fattori per crescere di più, diventavano a maggior ragione obbligate per avere un ritmo di rientro del debito pubblico compatibile con un piano automatico europeo e fatto più con crescita che invece con spesa pubblica e tasse alte. Però questa è la mia opinione, perché poi mi si può dire anche sì, però a quel punto ci si concentra sull'abbattimento del debito pubblico, magari con manovra di finanza straordinaria, e a quel punto però non sono cose che abbassano il deficit pubblico, perché questo è anche vero che può avvenire. Però allora iniziamo con il professor Reviglio. Dal suo punto di vista, questo compromesso europeo per un paese come l'Italia e i suoi problemi, che lei analizza nel libro Goodbye Keynes che abbiamo citato, è una cosa positiva o negativa? Secondo me è una cosa positiva. Ricordiamoci bene, perché non l'abbiamo ancora detto, che il governo ha presentato a fine settembre una decisione di finanza pubblica che per i prossimi tre anni prevede che il disavanzo dal 5% di quest'anno, 5% del PIL, scenda via via al 3,9% l'anno prossimo, poi al 2,7% e infine nel 2013 al 2,2%. Il debito pubblico nel 2013 scenderebbe al 115,2%, quindi diciamo così ammontari molto ambiziosi, ma lontani da quelli che sarebbero desiderabili in sede europea. Il vero problema, come giustamente Giannino lei ha sottolineato, è che l'Italia deve tornare a crescere, perché qualsiasi piano di risanamento e di stabilizzazione, quello presentato dal nostro governo o quello che rifarà a seguito di questo accordo di ieri, qualsiasi piano può funzionare se l'Italia torna a crescere. Perché non è cresciuta in questi 10 anni? C'è ampia evidenza di perché. Perché la nostra produttività e quindi la nostra competitività non sono aumentate come negli altri paesi. Noi siamo cresciuti un punto di PIL in meno l'anno rispetto alla media europea, che vuol dire 15 miliardi in meno l'anno, e quindi abbiamo creato meno posti di lavoro, i redditi pro capite in termini relativi si sono ridotti. Per tornare a crescere che cosa bisogna fare? Il ministro Tremonti ha detto che presenterà un piano per lo sviluppo nei prossimi mesi, prima della fine dell'anno, e lì sta il punto, perché un piano per lo sviluppo deve partire da questo obiettivo, rimuovere le barriere alla nascita, alla crescita delle imprese, aumentare gli investimenti. Ricordiamoci che gli investimenti delle imprese nell'ultimo decennio in Italia sono stati la metà di quelli dell'Europa. Gli investimenti pubblici sono tra i più bassi nei paesi europei. Tant'è che questo piano, questa decisione di finanza pubblica appena presentata, aggiusta quegli obiettivi, raggiunge quegli obiettivi grazie a un ulteriore taglio degli investimenti pubblici. E questo non è assolutamente accettabile. E che, si aggiunge alla nota condizione per cui insomma i settori interi come le costruzioni edilizie eccetera, per lo stop degli investimenti pubblici, le costruzioni, le piccole opere che non sono partite, le infrastrutture, il tiraggio tra CIPE dichiarato e quello che davvero poi parte davvero di quello che passa al CIPE, in effetti è molto molto molto molto inferiore. La fermo un secondo perché abbiamo la pubblicità e poi riprendiamo. Eccoci tornati in studio. Il professor Reviglio diceva, ricordiamoci che per l'Italia la crescita, il ritorno alla crescita più bassa prima di entrare nella crisi, la media dei paesi europei e la media dei paesi avanzati resta il problema numero uno, perché noi rischiamo molto concretamente di uscire dalla crisi con un tasso di crescita ancora più basso sempre dei nostri concorrenti. Professor Re Alfonso, lei di solito diciamo, passa oppure comunque commenta, analizza richiamando l'attenzione su modalità e approcci diversi da quelli del mainstream prevalente, per così dire, dicendo guardate che sullo Stato, sull'intervento pubblico, sul ruolo dello Stato di fronte alle crisi per il sostegno della domanda e per la crescita, voi commettete di solito un errore, voi che pensate che con il rigore, con la diminuzione dell'indebitamento pubblica si ottengono risultati migliori, perché lo Stato invece non solo ai fini della crescita ma poi ai fini della redistribuzione, in realtà avendolo abbandonato come punto di riferimento, diventa poi il mercato finanziarizzato quello che ci ha portato dove ci ha portato. Al di là di questo suo punto di vista, che magari ho sintetizzato in maniera un po' troppo brutale, ma ecco, una regola come questa europea, con più discrezionalità e contemporaneamente con il rigore sempre che viene dichiarato come passo di marcia comune, in lei che cosa suscita? Ma io direi che innanzitutto l'accordo che è stato fatto è ancora un accordo sostanzialmente vuoto. C'è come dire, Germania e Francia si sono messe d'accordo semplicemente sul fatto che è necessario venirsi incontro, ma nel merito ancora non c'è sostanzialmente nulla. È chiaro però che la direzione di marcia nella quale si va è una direzione che da molti viene considerata errata. Il patto di stabilità rischia di diventare, come dire, di diventare ancora più stupido di prima, nel senso che i meccanismi di abbattimento del debito che sarebbero previsti rischiano di innescare dei processi di restrittivi su scala europea poderosi. In effetti è vero che il meccanismo del ventesimo, diciamo, cioè il fatto che il debito dovesse essere ridotto di un ventesimo all'anno per la differenza rispetto al 60% sul PIL, sembra essere al momento accantonato, però è chiaro che l'elemento debito che prima era un po' sfumato perché si discuteva essenzialmente del deficit, quindi i paesi dovevano rispettare gli accordi di deficit e non di debito, viene ora a essere rafforzato in questa direzione. E il timore appunto è che in realtà politiche di abbattimento del debito, che tra l'altro avverrebbero contemporaneamente in più paesi, portino a una situazione di gravissima restrizione in campo europeo, dell'economia europea, di gravissima crisi e di ulteriore gravissima crisi. Tenete presente che queste posizioni, cioè l'idea che l'abbattimento del debito possa generare e alimentare ulteriormente la crisi, sono sempre più diffuse, cioè non sono affatto, come dire, le idee circoscritte in ambito accademico. Negli Stati Uniti il dibattito attuale va esattamente in questa direzione e infatti le politiche del governo Obama sono dirette a sostenere la crescita attraverso l'intervento pubblico e la spesa pubblica, e tra l'altro in questa stessa direzione si muovono anche organismi internazionali. Recentemente l'International Monetary Fund, il Fondo Monetario Internazionale, ha pubblicato il suo World Economic Outlook del mese di ottobre. Ebbene, il terzo capitolo di questo World Economic Outlook è tutto, si concentra tutto sul problema della crisi come una crisi da domanda, cioè mette in evidenza come la situazione che noi stiamo vivendo a livello internazionale sia legata principalmente a un problema di carenza di domanda aggregata, a un problema di domanda, ed è chiaro che in una situazione come questo concepire ed elaborare piani di progetti di stabilità concordati a livello europeo che prevedono abbattimenti e tagli della spesa pubblica diventa una follia, diventa una cosa che va esattamente in direzione opposta rispetto a quella che sarebbe necessaria per seguire. Naturalmente è chiaro che il discorso ovviamente è molto complesso, nel senso che naturalmente noi sappiamo bene che esistono paesi nei quali è difficilmente pensabile oggi di aumentare il rapporto debito-PIL, evidentemente, però è chiaro che ci sono importanti squilibri, per esempio sul piano europeo, e invece esistono paesi che hanno avanzi commerciali molto significativi e che sono nelle condizioni di poter fare delle politiche espansive e trainare in questa maniera la crescita in Europa. Quindi, come dire, il punto di vista che lei ha esposto prima è quello che si sta discutendo sostanzialmente, che si è discusso a Lussemburgo, è un punto di vista appunto che segue un'idea di taglio della spesa come necessità da perseguire, ma in realtà in accademia esiste e in alcune aree del globo, diciamo, direi che è dominante un punto di vista secondo il quale invece occorrerebbe ragionare in direzione esattamente opposta. Io penso che Alfonso abbia assolutamente ragione, primo nell'università italiana ma anche negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, diciamo, i rapporti sono un po' diversi, le proporzioni sicuramente nell'università italiana il punto di vista di Re Alfonso è non solo significativamente rappresentato, è nettamente maggioritario, è un'impostazione, diciamo, keynesiana classica, e in più con l'innesto di tutta la forte corrente di studio di Accademia Italiana che si rifà poi a Sraffa, a Pasinetti eccetera eccetera, quindi con una componente poi socialista, marxista dallo Stato molto forte. Quindi da questo punto di vista, come Re Alfonso ha anche ragione nel ricordare a tutti che gli Stati Uniti, con una politica del debito pubblico molto forte, e insomma, e con Krugman che dice che non basta ancora, ce ne vuole una ancora più forte di intervento pubblico, diventati il fulcro del dibattito internazionale, quanto poi all'exit strategy, se sia necessario continuare a tenere il pedale sull'intervento pubblico oppure alzare. E il problema è però che l'economia privata americana tende a non credere più a questa quantità di intervento pubblico da una parte, e di politiche monetarie molto lassiste e molto innovative con l'acquisto da parte delle banche centrali sul mercato dall'altra, perché tende l'economia privata a dire tutte le tasse in più che ci arriveranno ci fanno stare con le mani in tasca sulla capacità di spesa, ci fanno risparmiare molto più di prima, e questo è un bene perché c'erano un po' di debiti privati in eccesso da recuperare, ma dall'altra gli investimenti non ripartono e le quotazioni dei titoli, una volta incorporato l'esaurimento delle scorte, di fronte al fatto che i consumi poi non decollano, sono in alcuni settori, l'incorporazione del prezzo di utili attesi non troppo elevati significa che poi la borsa non decolla. E questa è la fotografia che porta Obama a sbattere un po' il muso alle elezioni del midterm. Professor Reviglio, il suo titolo è un po' programmaticamente provocatorio, sia pure con un punto interrogativo rispetto alle tesi di Re Alfonso, che ci ricorda: no, Stato, guardate, sia in America che Fondo Monetario, che nell'Accademia, forte, non come voi minoritari austriacanti che volete la diminuzione dell'intermediazione pubblica come condizione per economie che crescono di più e più efficienti. Lei scrive il titolo Goodbye Keynes, e dopo un dettagliatissimo riepilogo aggiornato della finanza pubblica italiana, ricorda la necessità di meno debito, più lavoro come sentiero fondamentale per quella crescita aggiuntiva. Quindi la risposta un po' da dare in pillola a chi come Re Alfonso dice guardate state sbagliando ad abbandonare il vecchio Keynes, qual è? No, io credo che stanno sbagliando i miei colleghi economisti che pensano che una ricetta keynesiana sia praticabile nei paesi che hanno come l'Italia un alto debito. Un economista assolutamente in questo momento dei migliori del mondo ha pubblicato sull'American Economic Review di giugno un saggio in cui dimostra con un'analisi empirica che i paesi che hanno aumentato il debito sono cresciuti di meno. L'Italia è praticamente cresciuta di un punto di PIL in meno l'anno per il debito. Il problema è certo quello che diceva il collega, che se si riduce la domanda naturalmente si aggravano i problemi, ma come se ne esce? Si può ridurre il debito soltanto se si cresce di più, e per crescere di più c'è una strada, a me la palissiano, aumentare la produttività. L'Italia non ha aumentato la produttività, certo che sono le riforme difficili da fare, cominciamo dalla riforma fiscale, spostare le imposte verso i consumi per ridurre le imposte sulle imprese e sul lavoro, cioè una serie di riforme di cui si parla, aumentare le liberalizzazioni, faccio l'elenco, la giustizia civile che non funziona, la dotazione delle infrastrutture che abbiamo detto poco fa, fisiche e telematiche, il prezzo dell'energia che è troppo alta, cioè c'è tutta una serie di determinanti della bassa crescita in Italia che bisogna rimuovere. Se si riuscisse a crescere tra il 2 e il 2,5%, diciamo il nostro patto di stabilità verrebbe, diciamo così, realizzato con effetti positivi sulla crescita, non con effetti negativi sulla crescita. Ora, dopo la pausa che noi dobbiamo fare per l'informazione sulla circolazione stradale, subito dopo io pongo un'altra questione, questa volta tornando ad Adriana Cerretelli, perché c'è chi sostiene che il patto nuovo europeo, che si estende al debito pubblico, non solo al deficit, che mette anche la crescita all'interno del processo, diciamo così, di vigilanza e concordato con Bruxelles e i paesi membri, però trascura un altro dei punti fondamentali del dibattito internazionale su come si esce dalla crisi, cioè quello del riequilibrio delle posizioni estere dei paesi, perché il modello della svalutazione delle monete tra dollaro e yuan dall'altra, il modello che vede la Germania alla testa in realtà dei paesi tra virgolette virtuosi europei, è un modello tutto che è tornato mercantilista, che crede di poter perseguire crescita stabile solo attraverso la massimizzazione dell'export e delle posizioni attive sulla bilancia dei pagamenti, mentre altri, classicamente quelli che criticano l'eccesso di attenzione verso il mercatismo e l'abbandono della prospettiva dello Stato, dicono invece l'Europa farebbe bene a darsi un meccanismo di riequilibrio anche interno per non credere che la Germania possa essere il traino per tutti. Per avere un traino, tenuto conto che i 2/3 del commercio media dei paesi dell'euroarea è interno all'Europa, c'è bisogno che chi è forte in bilancia commerciale e in bilancia dei pagamenti, cioè la Germania, riequilibri, cioè accetti di spendere un po' più di soldi pubblici a casa sua per sostenere la domanda interna e quindi tutti gli altri possano esportare di più. Non è un caso che in realtà il fronte dei paesi rigoristi, cioè Germania, Olanda eccetera, è quello che ha la posizione del bilancio dei pagamenti, la parte corrente, l'attivo di parte corrente tutta attiva per 6 punti di PIL come l'Olanda, per 5 punti di PIL come la Germania, mentre il blocco dei paesi che hanno un po' vinto, ma insomma sono quelli a favore della maggior discrezionalità e non per vincoli automatici, sono quelli che hanno la posizione di parte corrente del bilancio dei pagamenti col segno meno, l'Italia meno 3%, la Francia meno 2%, quindi la domanda che poi con cui ripartiremo ad Adriana Cerretelli, scusatemi ma sono questioni un po' tecniche, ci tengo anche a dare a chi ci ascolta un po' i termini tecnici della questione, sarà questa: il nuovo patto comprende questa necessità di un riequilibrio del modello di crescita europeo oppure restiamo squilibrati troppo a favore del modello tutto export tedesco sui mercati internazionali più che intraeuropei? Ricordo a tutti che la Germania ha la quota di commercio intraeuropeo più bassa rispetto alla media degli altri paesi, perché è molto più forte e sta diventando molto più forte nel resto dei mercati che trainano. Ora le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci tornati in studio, ce l'abbiamo lasciati con la domanda di Adriana Cerretelli sull'aspetto del modello di crescita trainato troppo dall'export, insomma la posizione dei paesi virtuosi, quelli competitivi per buona produttività oltre che per regola dei conti pubblici, rispetto a chi dice no, forse bisognerebbe riequilibrare anche il modello di crescita all'interno dell'Europa. Che dici, questo aspetto c'è nel compromesso franco-tedesco oppure no? No, nel compromesso franco-tedesco questo aspetto non c'è, c'è però nelle proposte della Commissione, che bisognerà vedere come finiranno, nel senso che proprio alla parte più nuova, quella che prevede appunto il riequilibrio dei divari macroeconomici che si sono accresciuti dentro l'area euro, in questo si prevede appunto che i paesi che hanno un eccesso o comunque molto forti avanzi commerciali debbano in qualche modo a loro volta riequilibrare, quindi rilanciare la domanda. Questa è una diciamo prospettiva che non sembra piacere molto alla Germania, tant'è vero che se noi guardiamo i programmi del governo tedesco sono in senso opposto, i famosi tagli in 3 anni della spesa pubblica da 80 miliardi sono esattamente un segnale che va in senso contrario. E anche per questo secondo me che il patto di stabilità ha bisogno di flessibilità, perché secondo me la Germania non può chiedere al resto d'Europa, diciamo, di ingabbiarsi nel rigore, che sia però un rigore a suo uso e consumo, nel senso che a volte si ha la sensazione che pur avendo i 2/3 del proprio commercio ancora in area euro, si ha la sensazione che la priorità, la strategia tedesca guardi ormai al globale, non più all'Europa, e che quindi l'Europa sia una sorta di retroterra dove c'è una moneta unica che deve funzionare bene e non dare grane Sì. In buona sostanza l'intendenza europea segue, quello che conta oramai è la grande partita, la conquista del mercato cinese e non solo, brasiliano e così via, per la Germania, che ha una ottima produttività e porta a casa tassi di investimento, quindi tecnologia incorporata, nonché nei grandi gruppi una delocalizzazione negli anni precedenti alla crisi nei paesi limitrofi dell'est Europa con costi più bassi, ma sono gruppi integrati in buona sostanza tutti tedeschi, e quindi per la Germania la partita, sono molto d'accordo, questo spiega perché per i tedeschi diventa un po' meno importante il retroterra europeo, a costo anche di dare qualche concessione in più al fronte di chi obietta. Tanto poi la Germania pensa: noi i vincoli ce li siamo dati da soli in costituzione aggiuntivi, non aspettiamo quelli europei. Questa, secondo me, resta la differenza tra i paesi capaci di coniugare rigore e crescita e quelli invece che pensano solo che col basto al collo si può fare, come una cosa obbligata, perché nel primo caso i politici hanno introiettato un comportamento in cui diminuisce la spesa reale e diminuisce la pressione fiscale, senza diminuire ma migliorando attraverso selezione dove concentrare le risorse pubbliche. Questa è la lezione tedesca dagli ultimi 10 anni. Io non sono un esterofilo per definizione, ma il problema è che quando si ha un ammontare di intermediazione pubblica così elevato, solo se la politica introietta la necessità di scelte invece che servono a qualificare meglio l'efficienza di ciò che si spende, allora diminuisce la quantità reale di spesa pubblica, ne migliora la qualità e diminuisce la pressione fiscale, cioè si liberano risorse per il lavoro e l'impresa, come ci diceva prima il professor Reviglio. Temo che questo è ciò che manca all'Italia ancora nel centrodestra e nel centrosinistra, malgrado le chiacchiere e le promesse elettorali da 16 anni a questa parte, perché gli effetti non si sono visti nel centrodestra, e purtroppo un centrosinistra che torna, io rispetto molto le posizioni di Re Alfonso e di altri che la pensano al contrario, che torna a vedere nel più debito, più intermediazione pubblica, più spesa pubblica a bassa qualità la strada per lo sviluppo italiano. Io non sono molto d'accordo, sentiamo come la pensano alcuni di voi, cominciamo con Claudio che ci chiama da Prato. Prego Claudio. Giannino, come lei sa, per gli indiani delle praterie i pazzi erano i preferiti degli dèi, erano intoccabili. Mi consente di fare il pazzo? Come no, basta che non dica parolacce e ci siamo. No, figuriamoci, le parolacce sono sinonimo di stupidità. E allora le dico, patto di stabilità, qui dobbiamo fare il patto di instabilità. E allora di mettersi in testa che l'Europa, se non chiude completamente con la strategia mercantilistica, non ha futuro. Lei pensa che i giovani abbiano futuro con questa strategia che sento? Io sarei, e faccio il pazzo, a sorpresa, argentinizzare assolutamente l'Europa, non, l'Europa non, che non conta, contro l'Europa che conta, perché qui dobbiamo essere ben chiari. Aia. Noi abbiamo caricato sui giovani e continuiamo a caricarli, bloccando un qualsiasi sviluppo ragionevole, il futuro. E allora, lo fece De Gasperi, egregio signore, quando ci fu da ricostruire l'Italia. Visto che noi stiamo parlando di morti, perché l'Europa è morta, il passato dell'Europa è una tomba che è stata posta sui giovani, e allora, se l'ha fatto De Gasperi per ricostruire l'Europa, dicendo a quelli che avevano da avere da prima, mio nonno che ce l'aveva con De Gasperi perché avendo pagato i contributi in lire pre-guerra veniva pagata la pensione in lire post-guerra, non vedo perché non si debba fare ora. Dove è scritto che i giovani debbano continuare a pagare gli errori di questa classe dirigente che ci ha governato? Claudio, io sono d'accordo, ma i giovani hanno rapporti di lavoro, diciamo, significativamente meno tutelati e meno salario reale in cambio, per sostenere l'eccesso di, tra virgolette, io li chiamo privilegi, altri li chiamano diritti intoccabili, di coloro che abbiamo tutelato, con immaginando che il modello di intermediazione pubblica fosse asintoticamente votato a pressioni fiscali, tetti redistributivi molto elevati, e si è rivelata una follia perché ci ha fatto abbattere il tasso di crescita. Re Alfonso dirà di no, che a farci tenere il tasso basso di crescita è tutt'altro. Naturalmente il mio è un punto di vista, in Italia è minoritario dal punto di vista politico e accademico. Quindi quei giovani a nome dei quali tu dici dobbiamo fare l'Europa dei deboli contro l'Europa dei forti, in realtà la risposta viene: se cambiamo le regole, facciamo come dice il professor Reviglio. Questo è il mio punto di vista. Naturalmente esiste l'altra strada, quella di Re Alfonso. Vedremo la politica italiana che cosa sceglierà. Il dibattito, come avete capito, sulle regole europee resta aperto. Dopo questo compromesso politico bisogna riempire di contenuti quello che i 27 ministri, dando retta alla cosa politica, hanno detto vabbè, però vediamo, perché nei prossimi mesi in realtà, come ci dice Juncker, il diavolo si nasconde nei dettagli. Io dico che bisogna fare molto meno debito pubblico, molta meno spesa pubblica, tornare a privatizzare, a cedere un bel pezzo di patrimonio pubblico e a dare con meno fisco più voglia famiglia alla domanda e all'offerta di lavoro italiano, perché per tutti gli altri fattori della crescita, leggete il libro Goodbye Keynes, i tempi saranno lunghi per diminuire il sovraccosto energetico, il gap infrastrutturale, la produttività del brand immateriale e così via. Grazie comunque ad Adriana Cerretelli, al professor Franco Leviglio, al professor Riccardo Ranfonso, grazie in regia a Carmelo Lauricelli, in redazione Alessandro Marco Tulli, a Franco Piantanida, grazie a cui siamo andati in onda come assistente alla diretta, linea al giornale radio, appuntamento a domani. Yeah.